l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, il 13 agosto, e siamo qui per raccontare la nostra Europa. Quella di oggi è una puntata un po' particolare. In queste puntate estive cerchiamo altri punti di vista. La puntata di oggi è un po' dedicata al concetto di città, quello che lega le città all'Europa, un po' le città in chiave turistica, in chiave simbolica, in chiave anche come piccole metafore, piccoli laboratori di contaminazione culturale di quella che potrebbe, dovrebbe essere l'Unione. Andremo quindi a visitare alcune città particolarmente significative in Europa e andremo a conoscere anche alcuni progetti europei legati proprio alle metropoli. Come sempre vi ricordo anche le coordinate virtuali: www.euronetplus.eu è il portale del network al quale apparteniamo, a tanti dossier, tante inchieste in tante lingue diverse. Poi le coordinate invece per incontrarci anche virtualmente: chiocciola Euronet Plus R24 o chiocciola Federico Taddia su Twitter e su Facebook, e poi il nostro sito radio24.it. Si parte, le città e l'Europa. And right now Babylon dep on my case. People in a show, all lined in a row. We just push on by. It's funny how hard we try. Take a moment. Non è una città la prima tappa di questo viaggio, ma è un luogo molto significativo per l'Europa, un luogo che si abbina spesso, sempre, al concetto di Europa, perché lì è nata l'idea d'Europa. Sto parlando dell'isola di Ventotene, che insomma abbiamo e vogliamo partire proprio da lì, e lo facciamo con Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo in Italia. Ciao Virgilio, ben ritrovato. Ciao, qui all'altra Europa. Ciao. Perché si parla di Europa e subito si pensa a Ventotene? Perché nel 1941, quando quasi tutta l'Europa era occupata dalle armate naziste e fasciste, ci furono alcune persone, uomini e donne, che ritennero che la democrazia avrebbe vinto, e che però, perché questa democrazia fosse solida, bisognava superare la divisione dell'Europa in stati nazionali. Da qui nacque il manifesto di Ventotene, e poi il manifesto di Ventotene prese il volo a ottobre del 1941, portato in continente da due donne, Ursula Hirschman e Ada Rossi Montanari, che nascondendolo in un pollo lo poi portarono a Roma, lo stamparono e lo fecero circolare poi negli ambienti della resistenza antifascista e nazista in tutta Europa. È da lì che è nata l'idea dell'Europa federale. E oggi sull'isola di Ventotene ci sono ancora tracce di questa Europa? Beh, tracce poco, perché purtroppo con quelle operazioni urbanistiche che vengono fatte, i Cameruni, nei quali erano ospitati, diciamo così, fra virgolette, i confinati, sono stati praticamente tutti distrutti. Però ci sono le ceneri di spinelli. E fra l'altro, e la cosa più importante, è che dal 1982 ogni anno 300 giovani vanno a Ventotene per insegnare e apprendere l'Europa. Sono passati dal 1982 su Ventotene almeno 5 giovani, non soltanto europei ma provenienti anche da altre parti del mondo, che hanno imparato in qualche modo a diventare militanti per la causa europea. Questa credo che sia la cosa più importante che riguarda l'avvenire. un laboratorio vivo, e proprio da lì, la prossima settimana, praticamente il 22, se non erro, l'Europa tenta di ripartire, vero? Sì, il 22 si incontreranno a Ventotene Merkel, Hollande e Renzi, e poi il 27 si incontreranno a Ventotene la Presidente della Camera Boldrini con 5 Presidenti di Parlamenti nazionali. Speriamo che in qualche modo l'area di Ventotene sia ispiratrice per gli uni e per gli altri, che da lì non si esca soltanto con alcune decisioni di carattere tecnico, ma quello che abbiamo scritto noi a Renzi, Hollande e Merkel: fateci sognare. Io credo che gli europei abbiano bisogno di ricominciare a sognare. In un'Europa che è diventata un incubo, dobbiamo ricominciare a sognare. Avete scritto una lettera aperta con precise richieste. Abbiamo chiesto a Merkel, Hollande e Renzi 3 cose, 2 cose immediate. Bisogna ripartire dal sociale, in particolare noi ci prendiamo conto l'alto livello di disoccupazione giovanile, quindi bisogna fare qualcosa per ridurre il livello di disoccupazione. Abbiamo rilanciato l'idea di un reddito minimo di cittadinanza. Dobbiamo combattere il terrorismo e la criminalità, e questo lo si fa a livello europeo. Abbiamo proposto una procura federale europea che abbia 2 strumenti, 2 bracci armati, diciamo, un'agenzia di intelligence europea e una polizia federale europea, perché abbiamo visto che il terrorismo è nato europeo, è nato da noi, nelle nostre città, e bisogna combatterlo all'interno dell'Europa. L'illusione di dire chiudiamo le frontiere è una pura illusione, non si va da nessuna parte. E poi il terzo punto è che questa Europa non va, bisogna cambiarla. Per cambiarla bisogna cambiarla democraticamente, quindi noi pensiamo che bisogna riavviare quel processo che fu avviato da Spinelli nel 1980, dando al Parlamento europeo il compito di scrivere il progetto di una comunità federale. Movimenteeuropeo.eu, ricordiamo il sito del Movimento Europeo in Italia. Virgilio, voi fate tantissima attività di formazione, di divulgazione, quest'anno anche con i processi all'Europa, incontrando veramente decine e decine di giovani. Qual è il rapporto oggi tra i giovani e l'Europa? Cosa avete colto, raccolto, oltre che seminato in questi mesi? Beh, intanto i giovani sono naturalmente europei, nel senso che sono nati e vivono in una realtà transnazionale che va al di là delle frontiere, e però si rendono conto che l'Europa, così come oggi, ha difficoltà a rispondere ai loro bisogni, alle loro richieste, ai loro sogni, e quindi sono positivamente critici. Il processo all'Europa che noi abbiamo avviato è un processo all'Europa non per distruggere quest'Europa, ma per ricostruirla su altre basi, e i giovani sono molto impegnati in questa attività, si sono trasformati in parte in pubblici accusatori e in parte in giuria popolare, e devo dire che è un'esperienza esaltante, entusiasmante, questa di vedere gli studenti delle scuole, gli studenti universitari che si trasformano appunto in giudici dal punto di vista dell'accusa o dal punto di vista di quelli che poi emettono le sentenze, e che indicano in qualche modo chi sono i responsabili dell'Europa così come oggi e che cosa bisogna fare per cambiare questa Europa. Io credo che questa esperienza è un'esperienza molto positiva che noi vorremmo esportare anche in altri paesi europei. Cosa consiglieresti a un giovane per assaggiare un po' il sapore dell'Europa? Meglio andare a Ventotene o meglio andare a Bruxelles? No, intanto cominci ad andare a Ventotene, credo che sia la prima cosa da fare, e andare a Bruxelles poi in qualche modo rafforzati e ispirati da questa atmosfera magica di Ventotene, che deve in qualche modo dargli l'indicazione che quando si ha il coraggio di fare qualcosa poi alla fine si realizza. Insomma, come dicevo all'inizio, quando Spinelli, Rossi e Colorni insieme a Ada Rossi e Ursula Hirschman hanno scritto nel 1941 il manifesto di Ventotene, nessuno avrebbe creduto in quel momento che alla fine avrebbe vinto la democrazia, perché l'Europa era occupata da Hitler e da Mussolini, e quindi io credo che questo è un insegnamento molto forte al quale si devono ispirare anche i giovani di oggi. Grazie davvero a Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo in Italia. Buona estate, Virgilio. Grazie, ciao. Adesso ci fermiamo, un euro post-it, il traffico, poi ancora qua, con l'altra Europa. Europost-it. Nasce il fotoblog Faces of Europe. Hai appena fatto un'esperienza di viaggio incredibile? Attraversato frontiere, infranto stereotipi e scoperto meraviglie? Ti piacerebbe condividere la tua esperienza con i tuoi coetanei europei? Per farlo, puoi prendere parte a Faces of Europe Summer Stories, un fotoblog lanciato dal progetto Your Vision for Europe, che ha l'obiettivo di mostrare la varietà e la ricchezza culturale del nostro continente. Per partecipare al contest, crea un post con una foto e una descrizione di 150 parole sulla storia di una persona che hai incontrato nei tuoi viaggi e inviala all'indirizzo facesofeurope@aegee.org entro il 28 agosto. Le migliori 15 storie saranno pubblicate nel mese di settembre. Potrai trovare tutte le informazioni sull'iniziativa sulla pagina Facebook Faces of Europe. L'altra Europa. Influx. Esiste un caso di immigrazione. Comunque ci giriamo, sono italiani. Quella contemporanea è una migrazione della comunità europea. Quest'estate il Negroni si trovava dappertutto. C'è una percentuale in aumento di circa il 60%. L'età va dai 18 ai 60 anni. Molti sembra proprio che scappino dall'Italia. È cambiata anche la tipologia. È un mondo di gente che ha studiato. Cioè, alcuni sono incoscienti, altri sono dalla disperazione. L'Italia è fantastica quando non ci vivi. L'Italia sono praticamente due decenni che ha una crescita nulla. Se in Italia non è possibile, devi trovare la tua strada in una maniera o in un'altra. This means also renouncing and taking risks. Non è facile partire, ma una volta partiti... È l'Italia raccontata da chi ha scelto di andarsene e di raggiungere Londra. Quello che state ascoltando è il trailer di In Flux, un viaggio nel cuore della Londra italiana, film di Luca Vullo, film che abbiamo scelto per raccontare Londra, per prendere Londra in questa puntata dedicata alle città europee, un po' come provocazione. Londra del post Brexit, Londra a cavallo del Brexit, è stata la Londra anche che ha visto Luca Vullo, perché ha presentato il suo film proprio un giorno prima e pochi giorni dopo di Brexit, raccogliendo, credo, reazioni ben diverse. Ciao Luca, bentornato all'Altra Europa. Ciao a tutti, ben trovati. Allora Luca, hai raccontato la Londra degli italiani, ma anche in una Londra che stava cambiando, in una Londra che stava da europea è diventata extra europea. Intanto le reazioni al tuo film, prima e dopo Brexit. Interessante vedere comunque il fatto che abbiamo fatto comunità il giorno prima, nel senso che c'era comunque un grande paura per quello che sarebbe successo per molti degli spettatori, c'era ansia, c'era un sentimento comunque che era più sul negativo che sul positivo. Mm-hmm. L'essere tutti insieme in quel contesto, considera che c'erano più di 550 persone, nonostante la partita dell'Italia, però tutti insieme in qualche modo a vedere il nostro autoracconto, quello che siamo, la comunità italiana a Londra, il giorno prima di quello che poi non sapevamo cosa sarebbe successo, insomma, e che tutti ci auguravamo che non succedesse, o almeno buona parte delle persone presenti speravano che non succedesse. Poi c'è chi ha festeggiato anche, quindi anche da questo punto di vista bisogna fare un bilanciamento. Però ecco, il sentimento era sicuramente un sentimento di paura su quello che stava per succedere. Certo. Le reazioni al film sono reazioni di persone che si sono riviste, raccontate, hanno sentito anche la loro storia. Ognuno in qualche modo è stato toccato per qualcosa che all'interno del film si racconta, e quindi è come se fosse un'autoanalisi collettiva di tutti noi, uno spaccato contemporaneo di una comunità, la più importante in Europa, la comunità italiana a Londra e in Inghilterra, che si racconta nel bene e nel male, nelle cose buone e nelle cose brutte, mettiamola così. Quindi sì, è stato un momento di bellissima condivisione, devo dirti, ho sentito il senso di comunità molto forte quella sera. Quello che è successo nella proiezione successiva, già c'era un po' di incazzamento, quello devo dire che c'era un po' di rabbia, un po' di reazione, come dire, di stizza nei confronti degli inglesi in particolare, e quindi anche nel dibattito finale devo dire che a parte le questioni toccate dal film, c'era un po' un astio, ho sentito quantomeno un astio maggiore nei confronti del popolo inglese, ma questo non penso sia giustificabile proprio per i risultati del Brexit. Penso anch'io. Influxlondon.com è il sito ufficiale del film di Luca, che uscirà dopo l'estate anche in Italia. Ci sono i festival, insomma, ci sarà modo di vederlo in più occasioni. Luca, invece, cos'è Londra oggi? Come al di là del film, cambiamenti sostanziali ovviamente non ce ne sono stati, non ce ne sono visti, però... No. Guarda, io quello che vedo, a parte che i cambiamenti non si vedranno da qui al 2019, anche certo, per l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, insomma ancora ci sono dei tempi di margine. E poi non so se il fatto della petizione online di 4 milioni di firme di persone che vogliono rifare il referendum è significativo. Anche le proposte di quasi di fantapolitica sul fatto di Londra, che Londra possa rimanere in Europa e non nell'Inghilterra, questo è veramente paranormale, però sono cose che sono successe, quindi il sentimento dei londinesi, quello che posso dirti è quello di scuse. Io mi ricordo, prima di ripartire 2 settimane fa, dopo il referendum, moltissimi inglesi che incontravo anche per strada, al momento in cui sapevano che fossi italiano, che sono italiano eccetera, mi dicevano: scusami, mi dispiace per quello che è successo, davvero io non ho votato per io ho votato contro, e in qualche modo si giustificavano. Si vede anche dalla reazione del nuovo sindaco di Londra, che comunque ha pubblicato un video bellissimo sull'apertura delle porte di una città che accoglie tutte le culture, tutti i paesi, senza chiusura, no? Quindi in qualche modo per me Londra non è l'Inghilterra, paradossalmente. Londra è una delle città più ricche, più multiculturali del mondo, e quindi si è sentita ferita nell'orgoglio per questa chiusura di frontiera, mettiamola così, o per questa uscita, mettiamola così, dall'Europa. Però ecco, per me non è cambiato tantissimo, non vedo degli stravolgimenti, soprattutto in quella città. Poi magari nel resto del paese si sentirà, ma si sentirà anche a Londra dal punto di vista economico, anche dal punto di vista professionale, perché moltissime persone cambieranno anche città per andare a fare il proprio business, o comunque sceglieranno dei posti meno difficili, ecco, da un punto di vista burocratico, da un punto di vista, se vogliamo, puramente di movimento, ecco, di mobilità, ci saranno dei limiti, di mobilità. Beh, Luca, è già materiale per il prossimo film? Quello sempre, cioè... Adesso bisogna sviluppare i progetti, e sono nella fase di sviluppo dei prossimi progetti e della ricerca dei finanziamenti. Dopodiché ripartirò nuovamente con la nuova produzione, sia con un documentario che per la prima volta con il mio lungometraggio di fiction. Quindi sto lavorando al mio primo film, benissimo, non documentario ma anche di fiction. Lucavullo.it è il sito per conoscere tutte le attività di Luca. Grazie Luca, buona estate. Grazie a voi, buona estate anche a voi. Ancora le città protagoniste. Vi ho anticipato che avremmo parlato anche di un programma che mette proprio al centro le realtà urbane. Si chiama Urbact, il principale programma europeo di cooperazione territoriale. Urbact 3 in particolare, il programma operativo in corso. Ne parliamo con Simone D'Antonio del National Urban Point dell'ANCI. Ciao Simone, benvenuto all'Altra Europa. Ciao. Ciao. E allora, che cos'è Urbact? Allora, Urbact è un programma dell'Unione Europea che già da una decina d'anni più o meno finanzia delle reti locali composte da città di vari paesi europei che si confrontano su dei temi riguardanti lo sviluppo urbano, che possono andare dalla rigenerazione degli spazi pubblici all'inclusione sociale, insomma tutte le dimensioni della sostenibilità, quindi quella economica, ambientale e sociale. È un programma che vede le città italiane coinvolte con grande forza. Attualmente sono oltre 20 le città italiane che stanno prendendo parte a progetti, e possiamo dire che nel corso degli ultimi anni in totale sono più di una cinquantina le città di piccole, medio, grandi dimensioni che hanno realizzato, grazie ad Urbact, dei percorsi di sviluppo collaborativo a livello locale. L'elemento più interessante di questo programma è che non consente alle città soltanto di confrontarsi con altre città europee, ma spinge proprio i contesti locali ad attivare dei gruppi d'azione locale, sì, che mettano in pratica quanto appreso nel corso di questi scambi internazionali, quindi con degli impatti diretti molto forti sulla vita proprio delle persone nel territorio. E sono progetti che diventano sperimentazione di buone pratiche che poi possono essere imitate da altre città, sono progetti che cambiano una città. Certo, perché sono progetti che danno un metodo, danno un metodo di lavoro innovativo ai comuni che vi partecipano, perché riescono a mettere la partecipazione civica di stakeholder, di cittadini riguardanti un tema come modalità regolare di fare politiche pubbliche sul territorio. Questo è un qualcosa che noi come ANCI sosteniamo molto come modalità innovativa di fare governo nel territorio, perché pensiamo che possa essere una risposta utile che arriva dall'Europa e che vede anche in maniera sorprendente molto spesso le città italiane più avanti anche di altre realtà europee. Questo è un qualcosa che noi cerchiamo di comunicare, e soprattutto cerchiamo di dare evidenza ai sindaci stessi, perché molto spesso è proprio dai territori, proprio dalla collaborazione con gli attori locali che si sprigionano le energie più forti di innovazione. Simone, un'ultima domanda: c'è una cultura abbastanza sviluppata nelle amministrazioni italiane per avvicinarsi, per accedere a programmi di questo tipo? Ma io credo di sì, perché i numeri ce lo dico, insomma, le città italiane sono quelle che partecipano di più, spesso ovviamente con progetti di qualità, altre volte no, però il fatto che si stia facendo strada sempre di più l'idea che programmi europei possano consentire non solo di realizzare delle infrastrutture sul territorio, ma che invece possano consentire di migliorare la governance dei processi, possano consentire di migliorare il modo di fare amministrazione locale, di dialogare con i cittadini, di rimettere le persone al centro dell'azione dei comuni, delle città. Ecco, questo penso sia un qualcosa che ti sta facendo strada e possa essere sicuramente un elemento importante e anche positivo di presenza dell'Europa nelle nostre città. Un sito per tutte le informazioni? www.urbact.eu, lì c'è una sezione in italiano da cui è possibile accedere a tutte le informazioni che produciamo come punto di informazione nazionale. Perfetto, grazie, buona estate, ciao Simone. Anche a te, ciao. Noi ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua, con l'altra Europa. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema Digital Radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto, grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. L'altra Europa. Prozesu bat egin dute gaztek, lanketa, hilabete batzuetako lanketan, disziplina beraiek aukeratu duten, gaia beraiek aukeratu duten, azken finean eman zaizkie baliabideak beraien nahi zuten bezala proiektu bat garatu alizaten. Ha sido una semana súper intensa, de principalmente inmersión entre 14. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa. Chiocciola Federico Taddia per trovarmi su Twitter e su Facebook, tutti i link relativi agli argomenti della puntata di oggi. Stiamo ascoltando l'audio, un trailer di presentazione in questa puntata dedicata un po' al concetto di città, al rapporto tra le città e l'Europa. Stiamo andando a visitare le capitali europee della cultura e questo appunto è il trailer, il promo di San Sebastian. Diamo il benvenuto a Fernando Alvarez Busca, che è responsabile della comunicazione per San Sebastian 2016. Ciao Fernando. Ciao, ciao ascoltatori, ciao Federico, il mio programma favorito della radio italiana. Bravo. Bravo. Allora, con Fernando ci siamo già conosciuti quando insieme abbiamo inaugurato questo anno europeo della cultura. Sono passati diversi mesi, agosto. Come sta andando? Facciamo un po' il punto. Va benissimo, grazie per l'interesse di parte del vostro programma per la nostra capitale europea della cultura. La verità è che la parola che ho ripetuto questi mesi di più è successo. sì, ogni estate la città è piena, ma questo estate è ancora un anno speciale. Certo. Ci sono più persone che mai, sono attività ogni giorno. Per fare un esempio, in questo momento abbiamo nel Museo San Telmo una esposizione con opere del Museo del Prado, del Louvre, del Reina Sofia. Dall'altra parte ha appena completato un progetto che tutti i biglietti venduti prima ancora di iniziato. Sì. È il sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare. Una società locale ha rappresentato nei boschi di un parco della città e la verità è che è stato meraviglioso. Ricordiamo che la parola chiave di questo anno europeo della cultura è riconciliazione in tutti i suoi aspetti. Fernando, ma sta piacendo ai cittadini, sta piacendo ai turisti spagnoli, stanno arrivando persone dal resto dell'Europa? Dove ha fatto centro per fino ad ora il programma che avete ideato? La città, come dicevo, sta piena di gente di tutta l'Europa, di America, di Italia anche. Il centro è difficile da dire perché noi abbiamo molti progetti centrati in temi diversi, la convivenza, la riconciliazione, però come diceva il teatro anche, il cinema, i concerti di musica, molte cose, no? Molte cose. Gli abitanti di San Sebastian si sono innamorati un po' di più della propria città perché... Sono stati innamorati da tutta la vita. Siamo come gli italiani, il bel paese, siamo la misma cosa. Ricordiamo il sito che è dss2016.eu, questo è il portale per conoscere l'intero programma. Nei prossimi mesi, da qui alla fine dell'anno, cosa succederà, Fernando? Abbiamo molte cose. Tra gli altri è stato presentato ieri a Madrid un film che parla di San Sebastian e la coesistenza, chiamato Caleberiak, è una parola in basco. Sì. È un film di 12 piccole storie sulla città, in linea di Paris Je T'aime e New York I Love You, questo film. Dico questo perché la premiere del film sarà a settembre al Festival Internazionale di Cinema di San Sebastian. Ma per esempio gli italiani che si trovano in Spagna adesso, sì, durante i mesi estivi per godere, vi consiglio il Festival Cucha Culture. È un festival di pop rock e musica elettronica in uno scenario che potrebbe qualificarsi come onirico perché è il parco dei divertimenti di San Sebastian, che non è cambiata da quando è stata fondata 100 anni fa. È una cosa molto speciale. Fantastico, certo. È un altro progetto che potrebbe vi consigliare il Jazz Fest, un festival culturale dedicato alla celebrazione e alla protezione della natura, che si farà in agosto. Ci saranno musica, cibo, corsi per i bambini, cose del genere, no? Per promozionare la protezione della natura, il mare, l'oceano, cose del genere. Certo. Grazie davvero a Fernando Alvarez Busca per l'entusiasmo in primis, perché insomma... credo che sia un lavoro importante e anche a volte complicato quello del comunicare la cultura, no? Che è qualcosa oltre il turismo, quindi insomma un lavoro assolutamente fondamentale. Grazie, buona estate. Grazie a voi e voglio dire una cosa, forza Matera. È vero. Poi nel corso della puntata andremo anche a Matera per prepararci al nostro 2019. Sì. Ciao Fernando, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao. Europost-it. Food Smart Cities for Development. Avete un interesse particolare per i sistemi alimentari sostenibili e siete alla ricerca di finanziamenti per promuovere un'iniziativa legata a questo tema? L'associazione Eco Garantito all'interno del progetto europeo Food Smart Cities for Development lancia un bando nel territorio milanese che finanzierà proposte di azione per il miglioramento del sistema alimentare locale metropolitano. I fondi supporteranno attività come orti urbani, microgiardini, mercati di contadini o gruppi di acquisto locale, attività di recupero delle eccedenze alimentari e molto altro. Le tre azioni vincitrici riceveranno un finanziamento di 2.500 euro. Potrete iscrivervi entro il 30 agosto seguendo le istruzioni riportate dal sito equogarantito.org. Ancora città, ancora Europa, ancora capitali europee della cultura dopo San Sebastian, la seconda città che quest'anno ha l'onore di essere capitale europea della cultura si trova in Polonia ed è Breslavia o Wrocław, insomma il doppio nome con cui è conosciuta. E per capire quello che sta succedendo in questo anno siamo in collegamento con un italiano che vive lì, è un blogger e anche blogger. Diamo il benvenuto a Roberto Picchiotti. Ciao Roberto. Ciao, buongiorno. Tanto qual è il tuo blog, così ti individuiamo subito? Il mio blog breslavia.me. Ok, e come mai hai scelto di raccontare la città che ti ha accolto? Ma perché, guarda, io sono arrivato qua un paio di anni fa, non conoscevo più di tanto la zona e sin da subito sono rimasto abbastanza sorpreso da quanto fosse interessante la città. Quindi piano piano mi sono dilettato a fare foto in giro e avevo così tante cose che mi piacevano, che mi interessavano, che ho deciso di raccontarle un po' anche a qualcuno, sia in Italia che in Polonia, chi volesse ascoltarmi. Tra l'altro, prima di entrare appunto nello specifico della capitale europea della cultura, è una città particolare, vero? Una città universitaria, una città anche da un'architettura diversa rispetto alle altre città europee. Quali sono gli aspetti che più ti piacciono di questa città? Sì, questa città ha anche una storia molto, molto particolare, molto interessante, è stata sotto varie dominazioni in passato, prima della guerra era ancora Germania, poi è tornata ad essere Polonia e quindi ci sono anche varie influenze culturali che la rendono piuttosto peculiare anche rispetto al resto della Polonia. E oggi si vede una città internazionale perché, come dicevi, ci sono parecchie diverse facoltà, diverse università, quindi molti studenti, anche molti studenti stranieri, Erasmus, ma anche di altro tipo. Poi ci sono anche molte persone che vengono a lavorare qua perché ci sono molte aziende che hanno molte aziende internazionali, quindi molte persone vengono da fuori e quindi si trovi un sacco di italiani, anche spagnoli, da tutto il mondo. Mm. E quindi negli ultimi anni soprattutto il clima è diventato molto molto interessante. L'hai vista cambiare questa città dopo che è diventata capitale europea della cultura? È una città che stava già crescendo. Questo anno indubbiamente ci sono molti eventi, ci sono stati anche molti interventi architettonici, se vogliamo dire, di ristrutturazione, di miglioramenti di alcune zone della città che sono stati poi introdotti insieme a vari eventi culturali che l'hanno accompagnata. Quindi sì, ci sono state dei buoni cambiamenti, delle cose buone si sono viste. Uh-huh. Cosa ha funzionato fino ad ora e quali sono state le cose in programma che più ti hanno colpito? Ma ci sono stati molti eventi, ovviamente non è possibile seguirli tutti, alcuni più grandi, alcuni città più piccole. Da poco c'è stato un grande evento che segnava la metà dell'anno, come sì. Sapete, a gennaio c'era stato l'evento di inaugurazione, a dicembre finirà per un'altra grande festa, e a giugno c'è stata una festa, un grande evento per segnare appunto questo spartiacque. È stato molto bello, c'è stata un, si è svolto lungo il fiume, qui è attraversato dal fiume Oder con vari canali, vari rami, e creando anche varie isole. In una di queste isole, quella più centrale, c'è la cattedrale e altri edifici molto belli, e venivano proiettate grandi con un ottimo sistema di luci, immagini, colori sulla facciata della cattedrale. Allo stesso tempo grande orchestra ha suonato per un'ora circa un'opera composta appositamente per questo, per questa serata, da quattro compositori che hanno scritto questa musica pensando alla storia di Wrocław. Quindi una serata molto, molto particolare. Insomma, di impatto visivo e esatto, sonoro di rilievo. E invece attualmente in programma cosa c'è? Allora, si è concluso da poco il Festival del Cinema, sì, che a luglio ha preso la scena sostanzialmente, il grande Festival del Cinema, che è uno dei tra i più affermati qua in Polonia, al solito grandi, ottimi film, e soprattutto la cosa più interessante è un po' per tutti i cittadini, la più semplice da trovare, le proiezioni che vengono fatte nella piazza centrale. Oltre ai vari film in concorso, nella piazza centrale il Rynek, una grandissima piazza che è il simbolo un po' anche turistico di questa città. Grande maxi schermo, ogni sera un film gratuito in lingua originale, e ogni sera è piena la piazza di gente. Certo. E per questo mese d'agosto ci saranno, mi sembra, più che altro attività dal punto di vista arte, esposizioni. Mi sono segnato un paio di mostre da andare a vedere, ci sarà la mostra di Chagall, una location nuova che non ho ancora potuto vedere, perché ci sono questi padiglioni che sono stati ristrutturati, aperti al pubblico dopo circa 70 anni, e si trovano di fronte alla Stulecia, che è la sala del centenario, una grande struttura costruita agli inizi del Novecento, che è patrimonio dell'UNESCO, e queste nuove strutture sono state ristrutturate e ora sono utilizzate dal Museo d'Arte Contemporanea, e dovrebbe esserci, ci sarà a giorni, la mostra di Chagall, quindi quello vorrei andarla a vedere sicuramente. E un altro paio di esposizioni interessanti nel mese di agosto. Comunque, insomma, è uno dei segni più tangibili, no, di queste città, è proprio quanto la cultura può lasciare il segno, quanto la cultura va, come hai appena detto, per esempio, a incidere, a dare la possibilità di ristrutturare alcuni tesori, alcune aree che poi rimangono, perché insomma, segni tangibili, ma per fortuna indelebili anche nel tempo. Wrocław, così è scritto, Wrocław, così si pronuncia, .pl/it, il sito ufficiale della città, oppure breslavia.me, è il blog di Roberto Picchiotti che ci ha illustrato appunto Wrocław, capitale europea della cultura 2016. Grazie Roberto, buona estate. Grazie a te, ciao. Adesso un Europost-it, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Partecipa al social film Sveine Day. A tutti i volontari europei appassionati di social e cinematografia. Per celebrare i 20 anni del servizio volontario europeo, Agenzia Nazionale Giovani, ispirandosi al lungometraggio di Gabriele Salvatores, Italy in a Day, promuove la realizzazione del film Sveine Day. Si tratterà di un social film, cioè di una pellicola collettiva, i cui protagonisti saranno tutti i ragazzi attualmente impegnati in un progetto di servizio volontario europeo. Il risultato finale sarà un inno alla cooperazione e alla mobilità. Per proporre un contributo, basterà inviare il video di un momento a propria scelta ad Agenzia Giovani, seguendo le istruzioni indicate sul sito agenziagiovani.it. Il prodotto finale sarà visibile sulla web TV dell'agenzia, realizzata in collaborazione con MTV, oltre che sul sito, sui social e su tutti i canali di Agenzia Giovani. L'altra Europa. I am a passenger, and I ride. Parlare di città, parlare di luoghi, luoghi simbolo di questa Europa, ovviamente ci porta a parlare di turismo e di una campagna lanciata quest'anno, si intitola Europa Wonder, è tutto intorno, campagna che conosciamo insieme a Carlo Corazza, che è capo unità responsabile del turismo e delle industrie culturali e creative della DG Group. Buongiorno Carlo, ben ritrovato qui all'Altra Europa. Buongiorno. Allora, questa Europa, Wonder, è tutto intorno, su cosa spinge, su cosa punta? L'obiettivo è far scoprire o riscoprire agli europei che vivono nel posto più bello del mondo, dal punto di vista paesaggistico, di bellezze artistiche, patrimonio storico, città d'arte, che non c'è bisogno di andare a cercare tanto lontano per avere le cose più meravigliose del mondo intorno a loro stessi. Tenete conto che l'85% di tutto il turismo in Europa è fatto da europei, quindi è lo zoccolo duro dell'economia del turismo sono gli europei che visitano l'Europa e che devono continuare a farlo. Mm-hmm. Quindi appunto il desiderio di mantenere un po' il turismo degli europei in Europa, ovviamente poi si è vetrina anche per gli extraeuropei, campagna che punta molto sul coinvolgimento anche emozionale, emotivo attraverso i social, mi pare di capire. È una campagna partecipativa, poi cerchiamo di coinvolgere i turisti, i viaggiatori a condividere le loro esperienze con delle foto, con dei blogger, con dei commenti e aiutarci a scoprire i segreti nascosti dell'Europa. È un po' una grande caccia ai tesori nascosti collettiva che utilizza i social media, che sono le tecniche di promozione più adeguate e più effettive e soprattutto che hanno più impatto rispetto al budget investito. Trova il tuo colore preferito, l'Europa è il tuo regno, non ti senti mai solo, la bellezza sorprendente sono alcune delle categorie in cui chiedete appunto ai turisti di spedire, taggare le proprie immagini. Carlo, quanto l'attualità sta cambiando il turismo in Europa oggi? Dati molto recenti che abbiamo appena ricevuto ci indicano che c'è un calo dei turisti cinesi, ad esempio, dell'8%, che vuol dire circa del 20%, visto che il turismo cinese cresce dei ritmi del 10% in più l'anno. E questo turismo si sposta verso gli Stati Uniti o verso l'Asia perché c'è una percezione collettiva che non solo la Francia è pericolosa, ma che l'Europa in generale è pericolosa. E questi sono dati abbastanza inquietanti. Mm-hmm. Immagino, anche perché insomma impediscono forse anche di fare strategie a medio o a lungo termine. E My Wonderful Europe, questa è la campagna, questo è l'hashtag da utilizzare per le foto su tutti i social della Commissione Europea. Ovviamente si trovano le informazioni. Grazie a Carlo Corazza, buon lavoro e buona estate. Grazie a voi, grazie. Europost-it. A Bergamo il Film Food Fest. Attenzione appassionati di cinema e di cucina. A Bergamo dal 13 al 17 settembre arriva la terza edizione del Film Food Fest. Il festival, che attraverso un concorso cinematografico di pellicole da tutto il mondo, mira alla diffusione dell'alimentazione consapevole. L'evento avrà il patrocinio della rappresentanza in Italia della Commissione Europea e si svolgerà nel centro della città di Bergamo. Protagonisti del concorso, documentari e film d'animazione, cortometraggi e lungometraggi legati al tema del gusto, della corretta alimentazione, della biodiversità e della memoria gastronomica come patrimonio da preservare. Oltre alle proiezioni, il programma prevede anche una serie di eventi, tra cui degustazioni, dibattiti e incontri con grandi personaggi del mondo della cucina. Tutte le informazioni sul sito montagnaitalia.com/foodfilmfest2016. Radici significa le origini e la base della nostra storia. Ci sostiene. Invece i percorsi sono i percorsi che Matera ha fatto per arrivare fin qui. Però da portare e rinnovare nel futuro. Perché noi possiamo insegnare nuove cose ad altri paesi. Mettiamo in mostra quello che già abbiamo. Per far conoscere gli altri popoli anche le nostre capacità. Siamo stati a Ventotene, siamo stati a Londra, siamo stati soprattutto a San Sebastian e a Breslavia. Questa puntata non potevamo non concluderla andando in quella che sarà la città europea per eccellenza nel 2019, quando Matera sarà capitale europea della cultura. Ci andiamo insieme a Paolo Verri, direttore di Matera 2019. Ciao Paolo, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a tutti voi. Beh, la domanda è: cos'è Matera oggi e cosa sarà Matera fra 2 anni? Quanto sarà diversa questa città? Beh, in realtà il nostro lavoro non è tanto sulle città fisicamente, non siamo uno studio di architettura, ma noi lavoriamo sui contenuti, e questo da un lato ci facilita e dall'altro ovviamente rende anche più rischioso e più appassionante il nostro lavoro. Quindi non è tanto come sarà diversa la città fisicamente, ma come saranno diverse le offerte di contenuti che questa città farà ai visitatori, che noi non chiamiamo turisti ma cittadini temporanei, attraverso gli abitanti che noi chiamiamo cittadini culturali. E quindi la nostra proposta è di ripensare il modello turistico delle città di piccole e medie dimensioni in Europa, di ripensare i modelli culturali facendoli co-creare dai giovani e dagli anziani, e da fare un'offerta della cultura dove la tecnologia è parte integrante, non è un demone ma non è neanche un angelo. E quindi in realtà quello che si vedrà, ma si vede già in questi giorni, sì, anche con un festival che è in corso che si chiama Nessuno Resti Fuori, è molta vivacità fatta dai giovani e dagli anziani che si riappropriano degli spazi pubblici e li rendono fruibili a tutti, coinvolgendo i tanti turisti come parte integrante della nostra città. E Paolo, cosa, per capire anche il lavoro che c'è dietro a una manifestazione, a un anno del genere, cosa vuol dire pensare in chiave europea? Perché forse può essere facile capire cosa possa significare pensare in chiave culturale, quindi anche le suggestioni che ci hai detto. Poi però c'è quel salto in più, no? Deve essere una città che diventa un faro europeo per quell'anno. Cosa si innesca? Guarda, proprio in questi giorni abbiamo presentato un lavoro che farà Ulderico Pesce, che gestisce un centro, un teatrante piuttosto noto a livello nazionale, che gestisce un centro di creatività a San Paolo Albanese, quindi in un posto anche molto lontano ma bellissimo, nel Parco del Pollino, insieme alla Fura del Baus. E che cosa vuol dire? Vuol dire l'opportunità di chiamare a Matera, collaborare in questo territorio e in generale in tutto il sud, perché noi lavoriamo per essere una piattaforma che rappresenta tutto il mezzogiorno, tantissimi operatori, esperti, mondo dei media da tutta Europa, cioè avere l'opportunità di alzare il telefono e dire: sono Paolo Verri, vorrebbe lavorare con noi per il 2019, siamo capitale europea della cultura. E appena questa cosa scatta, ovviamente c'è un percorso, diciamo così, molto facilitato, molto abilitante, quindi vuol dire una straordinaria opportunità. Dall'altro vuol dire anche molta responsabilità, perché quello che fai non può essere fatto all'italiana, quindi non vuol dire farlo all'ultimo minuto, vuol dire conoscere bene l'inglese, conoscere bene le regole, fare per tempo i contratti, quindi forzare a un modello che non è un modello soltanto burocratico, come spesso si pensa, quello dell'Europa, ma è un modello di rispetto delle regole, dei valori e dei tempi, molto diverso da quello a cui troppo spesso siamo abituati a lavorare in Italia. E prima, ascoltando le parole dei tuoi colleghi di San Sebastian e di Breslavia, c'era la parola sorpresa, c'era la parola contaminazione, soprattutto c'era la parola festa. Quanto sarà una festa? Ma tantissimo, perché avendo vissuto, avendo già lavorato alle Olimpiadi di Torino, all'Expo di Milano, posso assicurare che quando c'è un appuntamento del genere poi travolge tutto e tutti, e quindi sicuramente sarà un anno senza sonno per tantissime persone, ovviamente per noi, ma anche per tantissimi altri, e poi l'invasione degli spazi lo renderà ancora più forte, già da quando siamo capitale, già dal 17 ottobre del 2014 questo sentimento è diventato fortissimo, se pensiamo che abbiamo avuto un più 160% di turisti, siamo passati da circa 130.000 turisti a 300.000 turisti l'anno, quindi già la città è molto vivacizzata, è diventato un punto di attrazione per tutti i giovani che vengono da tantissimi paesi di dintorni, da tutta l'Alta Muggia barese, dall'entroterra lucano e anche molto spesso da altre parti più lontane, dalla Calabria, dal Cilento, eccetera, eccetera. Quindi Matera è diventato un vero e proprio hub. Sono però molto interessato al fatto che chi verrà debba essere responsabile, di quello che viene a fare, responsabile di quello che porta via. Quindi il nostro lavoro, grazie alle tecnologie, come accennavo prima, sarà un lavoro di informare le persone che cosa vengono a fare e che cosa vogliamo da loro, perché vogliamo che ciascuna delle persone che verranno da noi nel 2019 sia parte integrante del nostro percorso, ci porti qualcosa di sensato e di sensibile e ci porti via qualcosa. Quindi sarà più che una festa dove ciascuno sarà invitato tanto a ballare, se possiamo dirlo con una metafora molto pratica, un portateco. Ciascuno dovrà portarne un pezzo e portarsene via un pezzo. Con rispetto, perché è una città che richiede rispetto per molta la sua architettura. Molta cura, l'abbiamo avuto anche dall'UNESCO, cioè abbiamo una richiesta veramente che la fragilità della città non venga travolta da questo grande fiume in piena che è la cultura europea, la cultura nazionale, che la invadono anche solo per un anno. Matera Linietta Basilicata 2019.it, il sito ufficiale. Grazie a Paolo Verri e in bocca al lupo, buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Grazie a voi e viva la cultura in Europa. Buona estate, ciao Paolo. E termina qui questa puntata dell'Altra Europa, dedicata allo stretto rapporto tra l'Europa, i suoi luoghi, i suoi spazi, le sue città. Un grazie a Miriam Lucchetti e a Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata. Peter Bescapè alla parte tecnica. Radio24.it come sempre il nostro sito da dove poterla riascoltare oppure scaricare il podcast. L'Altra Europa @radio24.it invece se volete contattare direttamente la redazione. L'appuntamento come sempre è alla prossima settimana. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Ciao! L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.